reportage. Stati Uniti, Unione Europea, addio TTP. Via libera al CETA per il Canada. Ma le imprese europee ci guadagnano? Diana Marino. Sul tavolo dell'Europa, come le tre famose carte, c'erano tre dossier dalle sigle ai molti sconosciute, tre trattati per liberalizzare gli scambi tra continenti. Il TTIP, poi il CETA e infine il TISA. Il primo, il trattato di liberalizzazione commerciale transatlantico con gli Stati Uniti, è saltato dopo l'elezione del presidente Trump. Il secondo, accordo economico e commerciale globale con il Canada, è stato approvato lo scorso 15 febbraio e il terzo accordo sugli scambi di servizi è ancora in fase di negoziazione con altri 22 membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Partiamo dal nuovo accordo commerciale con il Canada, il CETA, approvato dal Parlamento Europeo. Cancella i dazi su decine di prodotti e servizi. Il voto è stato contestato da molte ONG e da alcune forze politiche, dall'estrema destra ai verdi. Secondo Bruxelles, il beneficio per le imprese europee sarà pari a 500 milioni di euro. Per l'Italia aiuterà a combattere il fenomeno dei prodotti simili alle nostre DOP. Paolo De Castro, primo presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, spiega. La parte più importante riguarda l'eliminazione delle tariffe. È un enorme beneficio, soprattutto per le piccole e medie imprese. E questo è un beneficio importantissimo per i canadesi ed è un importantissimo risultato anche per noi, perché le nostre 4.500 tonnellate di formaggio pagavano dei dazi per entrare in Canada. Le regole sugli standard di qualità non cambiano. Parlare di ormoni come parlare di OGM è una bugia, una menzogna, perché le regole di standard non cambiano, quindi i prodotti canadesi che entreranno in Europa dovranno rispettare le regole che rispettano oggi. Non ci sarà nessuna differenza sotto questo profilo. Concluso al termine di 5 anni di trattativa, bloccato formalmente a ottobre dalla Vallonia, una delle parti del Belgio, approvato in seduta plenaria all'Europarlamento a Strasburgo, l'accordo commerciale Canada-Unione Europea di quasi 1600 pagine entra in vigore da aprile. Nelle sue parti fondamentali dovrà ora essere ratificato dai parlamenti dei singoli paesi membri. Il Canada rappresenta un mercato di sbocco di grande rilievo, con opportunità importanti in particolare per il comparto lattiero, caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo. Una volta applicato, il CETA offrirà alle imprese europee nuove e migliori opportunità commerciali in Canada e sosterrà la creazione di posti di lavoro in Europa. Non solo eliminerà i dazi doganali, ma potrà porre fine alle restrizioni nell'accesso agli appalti pubblici, aprirà il mercato dei servizi, offrirà condizioni prevedibili agli investitori e, cosa importante, contribuirà a prevenire le copie illecite di innovazioni e prodotti tradizionali dell'Europa. Standard europei anche in Canada per sicurezza alimentare e diritti dei lavoratori. Ma riguardo al tramonto del TTIP per gli Stati Uniti, Paolo De Castro sottolinea quella opportunità, come io ho sempre definito, l'opportunità di un negoziato commerciale che avrebbe potuto consentirci di definire meglio il confine e la lotta alle agropiraterie, all'Italian sounding, eccetera. Con questa impostazione che la nuova amministrazione americana sta dando, mi pare di poter dire che è definitivamente morto. Come è morto l'accordo col Pacifico, così mi pare che al momento non ci siano molte chance per proseguire nei negoziati quell'accordo transatlantico tra Europa e Stati Uniti. E naturalmente con la morte di questo accordo muoiono anche le possibilità di migliorare la situazione, perché oggi la situazione non è una situazione ideale. 9 prodotti su 10 venduti come italiani negli Stati Uniti non hanno nulla a che fare con l'Italia. Per cui noi speravamo molto che il TTIP potesse migliorare questo stato di fatto, ma mi pare che dovremo attendere che l'amministrazione americana decida diversamente. Il CETA è comunque un accordo che può diciamo definire anche un po' di tutele del mercato. Assolutamente, il CETA non è un buon accordo, il CETA è un ottimo accordo e a mio avviso deve essere preso come modello. Perché abbiamo il riconoscimento per la prima volta di un pacchetto importantissimo, più di 170 denominazioni d'origine, di cui 41 italiane, che non sono solo 41 sulle 250 che noi abbiamo, ma sono 41 che rappresentano oltre il 99% di ciò che esportiamo in Canada. E poi soprattutto risolvere tanti vecchi conflitti, penso al prosciutto di Parma che per decenni abbiamo dovuto cambiare nome per esportarlo in Canada, oggi grazie all'accordo CETA potremo esportarlo finalmente col suo vero nome, prosciutto di Parma e tanto di marchio di Corona 5 Stelle che c'era stata vietata dai giudici canadesi, perché un'azienda canadese aveva registrato il marchio prosciutto di Parma. Quindi gli accordi commerciali ovviamente devono essere condotti bene, bisogna portare a casa dei risultati, questo è ovvio, ma se come il caso del CETA sono fatti bene, si porta a casa opportunità e un equilibrato rapporto tra le parti, sono occasioni per migliorare la posizione, non sono certamente da combattere, non si può essere contro il commercio tout court. Il nostro mercato, soprattutto quello dei vini agroalimentari, ultimamente ha avuto grandissimi vantaggi, insomma, dal commercio con gli Stati Uniti. A questo punto, per il futuro, come ci si può premunire? Ma le regole sono quelle, non sono cambiate, quindi diciamo, non essendoci nessuna possibilità di andare a migliorare, cercheremo di lavorare con le regole attuali, che comunque ci hanno consentito crescere tantissimo, perché come ricordava lei, più di 5 miliardi di euro di vino europeo viaggiano verso gli Stati Uniti tutti gli anni. E secondo il Financial Times, l'Europa e gli altri partner commerciali americani sarebbero pronti a ricorrere alla WTO nel caso in cui l'amministrazione Trump approvasse una tassa sull'import e sulle vendite negli Stati Uniti, esentando invece le esportazioni, la cosiddetta border tax. L'Europa vuole evitare una guerra commerciale con gli Stati Uniti che sarebbe disastrosa per l'economia globale, afferma il vicepresidente della Commissione europea Katainen. Ma l'Europa è pronta ad agire se verrà imposta una tassa all'import o se saranno create barriere arbitrarie al commercio. Se qualcuno agisce contro i nostri interessi o contro le regole internazionali commerciali, abbiamo il nostro meccanismo per reagire, spiega Katainen. In molti settori come quello vitivinicolo si temono conseguenze perché finora sono stati registrati grandi risultati nel commercio con l'America, come nel caso dell'Amarone, un boom che spiega Olga Businello, presidente del Consorzio Valpolicella. Attivo da oltre 80 anni, il Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella riunisce 275 aziende di imbottigliatori e trasformatori della rinomata DOP del Veronese, per una filiera che conta 7 cantine cooperative, 2.347 aziende agricole produttrici di uva e 1.698 di queste producono uva per Amarone. Una situazione che Olga Businello, presidente del consorzio Valpolicella, spera non cambi per i suoi associati. L'Europa comunque rimane il vecchio continente dove il vino è comunque un prodotto che rientra facilmente nelle abitudini quotidiane e c'è una storicità ormai secolare, per così dire, nel consumo del vino. Gli Stati Uniti invece, pensando ad un paese oltreoceano molto lontano da noi, è effettivamente un mercato molto importante soprattutto per il nostro vino. Circa il 10% delle bottiglie di Amarone che si producono tutti gli anni vanno negli Stati Uniti e le città che diciamo rappresentano, condensano il maggiore consumo sono proprio le città trainanti della moda degli Stati Uniti, sono Washington, Boston, New York, quindi tutta la parte più legata all'Occidente per certi aspetti, ma anche la più quella che detta un po' le condizioni poi anche del mercato stesso dell'intero paese. Infatti io ho citato le tre città e quest'area degli Stati Uniti, però noi siamo presenti anche nel Texas, siamo presenti anche in regioni come la Virginia, per dire, o l'Ohio, cioè quindi zone abbastanza chiuse in se stesse, insomma, che raccolgono prevalentemente la provincia americana. Il successo, diciamo, della nostra presenza è dovuto a vari fattori. Un fattore, diciamo, per così dire banale, però importante, è la forte presenza che c'è stata in epoche passate di immigrazione italiana e quindi di conseguenza la ricerca di prodotti di alta qualità del loro paese. Si va verso un protezionismo, ecco, come vi state regolando? E siamo proprio in un momento di snodo, no? La politica americana sta iniziando con la nomina del nuovo presidente a configurarsi e bisognerà vedere un attimo anche lui questo protezionismo fino a dove lo spingerà. Io francamente mi permetto di esprimere un'opinione, credo comunque che Trump, essendo un imprenditore ed essendo una persona che sta cercando di ricucire rapporti anche con altre grandi potenze per gli Stati Uniti, non ostacolerà il commercio del vino, perché tutto sommato è un prodotto che è vero in America, in California si produce del vino, però non siamo sicuramente un problema per l'economia americana, quindi credo che non ci sarà un grosso problema in questi questi termini, sarà più per altri settori, secondo me, che ci sarà una spinta al protezionismo. Questo dipenderà molto anche dal governo italiano, come riterrà di in questo momento muoversi anche a livello europeo, perché ricordiamoci che comunque a livello europeo c'è molta triangolazione rispetto alle scelte che faranno gli Stati Uniti in questo momento, soprattutto con la Germania. Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.